Let's start what we have come into the room to do. Please cut the fuck. To do. Fire up. Fuck. Do. Nego. Fuck. To do. www.askthebenny.com. Beh sì, proprio così, proprio così. Move your body. Siamo entrati, siamo in diretta. Ciao Piero. Ben trovato Coli. Siamo appunto in diretta su Astarbene.com, su Radio Exalge e da Exalge in Milano. Questa è l'episodio numero 6 di Battito Madre, cioè l'ultimo di questa stagione. Benvenuti a tutti. Che energia, con che energia. Con che energia, iniziato, bravo. È abbastanza chiaro quindi dove andremo a parare oggi, ma avevamo detto il titolo dell'episodio si chiama Club Party, per cui è un episodio ballerino, un pochino sabotato, siamo stati un pochino sabotati se vuoi da questa pioggia tropicale che esattamente mezz'ora prima dell'inizio della diretta si è avventata su Milano e che adesso tra l'altro pare essersi placata, l'ha fatto apposta per farci un dispetto, ma comunque noi siamo bella in diretta però, eh? Da Exalge siamo live, per cui veniteci a trovare, siamo qui, bello bello, sì, ce n'era bisogno probabilmente. E tutto ciò, va bene, c'è anche una partita dell'Inter qui a Exagio, sì. Per cui se non vi interessa, ci sono anche i ragazzi. Il calcio, ci sono anche i ragazzi, potete venire a trovarci. La Fiorentina ha appena fatto gol. Ecco, cioè, ecco, manco ecco. A dirlo, veramente. Non commentiamo. Manco a dirlo. È andata così, Luca dal bar ci guarda, è andato, è successo, Luca. Bene, ma detto questo, noi abbiamo deciso. Sono altri che... 89 minuti. Sì, ma chi se ne frega, Coli, perché noi ci eravamo detti che oggi avremmo provato a parlare pochissimo e a suonare tanta musica, invece è già vero. Ci stiamo un po' perdendo. Quindi saltiamo a pie pari questa nostra tradizione che abbiamo usato durante tutta la stagione, cioè di fare un po' di notizie, diciamo, di black music del mese, la saltiamo a pie pari, perché, mio caro Coli, la notizia è una: che sì, è vero che questo è l'ultimo episodio di Battito Madre, ma non è l'ultimo appuntamento con noi. Abbiamo appena iniziato, dal vivo, lo diciamo, né sempre. In realtà molto probabilmente sulle web frequenze di Radio Exagi di Estremia.com, perché tra un mese esatto, cioè sabato 24 giugno, Save the date, draga, c'è la festa di fine stagione di Battito Madre qui a Exalio. Sarebbe bello aver già chiuso la lineup per cui poterla annunciare così in diretta. Così non è, ma succederà molto molto presto. Intanto save the date, perché sabato 24 giugno qui a Exalio Milano c'è la festa di fine stagione. Tiriamo giù Exalge. No, non è vero, non lo tiriamo giù, ma perché gli vogliamo bene. Lo tiriamo su. Lo tiriamo su, nemmeno perché non ne ha bisogno. Però allora sì. Stiamo, vabbè, non venite, facciamo nessuna differenza. Partecipate con noi, venite, dai. Presto ci saranno comunicazioni, intanto bisogna segnarlo sul calendario. Bene, mio buon Coli, abbiamo già detto che parliamo di... insomma, il titolo è Club Party. Club Party, esatto. Uno potrebbe dire perché club, cioè perché mettere sotto questo macro termine, sì, esatto, la musica di cui che stiamo analizzando oggi. Sì. Club in senso molto lato, perché se poi il club pensiamo al posto che ha la licenza per fare musica dal vivo, non ci stiamo capendo. È club come luogo apposito per andare, per trovarsi, stare in compagnia e suonare la musica e ascoltare la musica. Esatto, ascoltare e ballare contemporaneamente. Per cui sostanzialmente dove eravamo arrivati? Quindi luogo, cioè nel senso, chiudiamo il discorso: luogo di raccolta, luogo di ascolto, luogo di ballo e condivisione. Che poi vorrà dire, vuol dire molto, moltissimo, esatto, altro. E lo scopriremo. Non me ne vorranno gli ascoltatori e le ascoltatrici di Battito Madre se anche questa storia inizia in Giamaica. O può essere, si può fare iniziare in Giamaica. Cioè, diciamo che abbastanza brevemente, perché oggi abbiamo detto che tagliamo negli anni 50 in Giamaica, a Kingston, che è un periodo di cui già abbiamo parlato, di molto fermento, soprattutto sia culturale, politico e musicale, è iniziato il fenomeno dei sound system. E qui è ancora un po' di leggenda, nel senso che storia vuole che quest'uomo senza nome, proprietario di un negozio di liquori di Kingston, un giorno abbia ben pensato, per attirare clienti nel suo negozio invece che in quelli altrui, di mettere fuori dal proprio due casse e di sparare della musica da lì. La cosa ha funzionato, tanto che nel giro di pochi mesi, di pochi anni, non c'era un angolo, non c'era un marciapiede di Kingston o di certe zone di Kingston che non avesse un sound system, e questi posti diventavano proprio dei centri di ritrovo, dei centri commerciali, momenti di aggregazione. Leggiamo anche un forum politico, visto proprio il periodo che era in Giamaica, e il giornale del ghetto, perché poi l'MC diceva le cose che stavano succedendo. E non meno importante, per tenersi aggiornati sulla musica che veniva rilasciata e ascoltata attorno a sé, perché le radio erano ancora molto molto limitate, certo. Nei ghetti di Kingston nessuno poteva permettersela. Anzi, dunque, era proprio sempre grazie a queste figure che erano i DJ che le persone scoprivano la musica, non c'erano altri modi. Per cui il sound system nasce esattamente così, al di là della leggenda che lo vuole come mezzo commerciale, ma è diventato molto molto di più. Il giornale del ghetto, ripetiamo, aggregazione sociale, era attorno ai sound system già dall'inizio si raccoglievano delle intere comunità. E poi, cioè nel senso, io aggiungerei effettivamente qual è la figura di questa storia che ci interessa. Quella del disc jockey, DJ, che diventa protagonista, no? Diventa il vero showman e e protagonista di quello che sta accadendo all'interno di una serata o di un party, eccetera. La musica a quel punto è nelle sue mani, non più da strumenti dal vivo e da band, da tanti elementi, eccetera, ma si passa ad avere come prevalente la figura del disc jockey. Assolutamente, ci interessa quell'aspetto lì e anche il suo rovescio, perché da un lato certo il grande guadagno di importanza della figura di chi sceglie e mette la musica, dall'altro un modo diverso di stare insieme ascoltando della musica e ballando della musica, proprio attorno all'impianto, cioè al sound system che si raccoglieva questa comunità. Dunque, non abbiamo posto per le ciance oggi, dunque, visto che la storia inizia ciance. Qui, parliamo della Giamaica, andiamo a suonare un pezzo, una dub, anzi, di un uomo che in Giamaica c'è nato ed è andato in Inghilterra, perché poi questa storia proseguirà in Inghilterra. Lui ci è arrivato che aveva 8 anni, gli mandiamo un pensiero su, da dove ovunque sia, se ci sta ascoltando, questa è Jah Shaka, la dub di Josh Arwen insieme ai Twinkle Brothers nel disco che è Dub Salute numero 5, uscito nell'88. Non resta altro da dire. Josh Arwen Dub, Jah Shaka in diretta su osterbene.com e su Radio Exalge. Jah Shaka, Josh Arwen Dub, che è una version di un pezzo di Twinkle Brothers inserito appunto in Dub Salute Number 5 di Shaka, uscito nell'88. E perché? A parte che ha sempre senso suonare un pezzo di Shaka, ma perché ha senso in questo... In questo caso, perché Jah Shaka, di cui tra l'altro è stato rivelato il vero, tra virgolette, nome, che noi qui non ripeteremo perché ho letto e mi sono sentito d'accordo che è stata un po' una violenza coloniale aver rivelato il given name di Jashaka. E insomma, lui fa parte di quella che viene chiamata la Windrush Generation. La Windrush, l'Empire Windrush, forse l'ho già nominata, è stata la prima delle grandi transatlantiche organizzate dal Regno Unito dai Caraibi, che trasportarono intere famiglie, si parla di milioni di persone, dai Caraibi all'Inghilterra, e attraccò nel maggio del 48, quando appunto Jashaka aveva 8 anni. Perché è importante questo? Perché in Giamaica appunto già stava iniziando a succedere quello di cui abbiamo appena finito di parlare, cioè la storia dei sound system. Ma perché poi quelle persone lì, cioè i caraibici, che si trovarono di colpo negli anni 50 in un Regno Unito, in un'Inghilterra, in una Londra molto razzista, in situazioni di miseria, davano luogo a queste comunità caraibiche a Londra e in Inghilterra, davano luogo a quelli che poi si chiamano blues parties, delle feste in posti privati, nelle case delle famiglie e in posti così, ma diciamo anche dove capitava, soprattutto tendenzialmente in tarda notte, cioè iniziavano anche verso mezzanotte, l'una, in cui proprio era c'è un bel racconto, cioè i padroni di casa iniziavano già dal mattino a preparare, a pulire tutte le stanze, a cucinare per tutti gli ospiti, perché era un luogo in cui giamaicani e caraibici in generale potevano ritrovare il sentimento di casa propria in un posto che li aveva chiamati ma non li stava per niente accogliendo. Ed è per questo che sono stati chiamati blues parties, perché ti curavano il blues, la nostalgia di casa, ne abbiamo parlato. Erano proprio dei momenti fondamentali di riconoscimento reciproco. Il paese che ci ha chiamati, il governo che ci ha chiamati non ci accoglie, accogliamoci noi tra di noi. Era ricreare un piccolo pezzo sicuro e accogliente e bello e felice in un posto che era esattamente il contrario. Abbiamo trovato un film di cui ho letto molto bene, che però non ho visto, che però mi fa anche piacere citare, che è recente ed è di Steve McQueen, da una trilogia, è del 2020, si chiama Lover's Rock, che parla proprio di blues parties verso la fine di questo fenomeno, perché è ambientato nel 79-80, ma parla proprio di questo. Jashaka è stato proprio uno di quella generazione. È giusto immaginare che i genitori, gli zii, i cugini, gli amici di Jashaka fossero organizzatori di blues parties, che lui stesso abbia in qualche momento frequentato queste feste. Un altro nome di sound system che sicuramente, perché si sa, perché lo dicono, è stato coinvolto in blues parties è Channel One, perché tra l'altro è un sound system in cui c'è un figlio che raccoglie l'eredità del padre, che era stato proprio di prima generazione, Windrush Generation, e aveva fatto i blues parties con il proprio sound system, che era un po' mobile e un po' centro dell'intrattenimento. È quello da cui poi si è originato tutta la sound system culture che noi conosciamo, ma proprio anche questo modo di stare attorno a degli oggetti che riproducono musica in modo più profondo, più spirituale, in modo da creare uno safe space. Sono stato abbastanza conciso, Coli? Sì, chiaro e conciso. Ok, mi fa molto contento questa cosa, perché abbiamo ancora un botto di musica da suonare, perché non ci piaceva noi finire la stagione con 50 pezzi suonati. Abbiamo fatto il 50+1 e ne vado molto contento. Perché questa è una storia in cui torneremo negli Stati Uniti. Partiamo là invece, sì. Qui invece si tratta di disco music, l'avevamo nominata nella scorsa puntata sull'hip hop, a proposito di break, a proposito di campioni. Queste sono cose sostanzialmente contemporanee, no? Sì, sono cose nel senso contemporanee, per quello che si può leggere sulla carta, sentendole. Uno dice, ah ok, cioè stiamo parlando di ormai di parecchi anni fa, ma... Sì, sembra, dico, contemporanee tra loro, hip hop e... Ah sì, certo, disco, quello sì, sì. Ma sì, soprattutto dopo questa storia che andiamo ad iniziare adesso, sono sì, cose... Sì, assolutamente, ma soprattutto anche R&B, anche soul, è un momento in cui tutti questi generi si fondono insieme ed è per questo motivo che, per cui è nato anche questo genere qui, con le premesse che ci siamo appena detti, che hai fatto, questo momento di comunità, ballo e accettazione ha dato luogo alla creazione vera e propria di un genere a sé stante. E ci torneremo tra pochissimo, perché prima, appunto, ripartiamo dalla disco music. Lei è una donna che si chiama Sharon Redd e questo è un disco che spacca tutto e si chiama Beat the Street, e lo ascoltiamo live and direct su astralbear.com, su Radio Exalge e live da Exalge in Milano. Senti qua, Cori. Sì, Sharon Redd, Beat the Street, mentre torniamo in diretta sulle web frequenze di astralbear.com e di Radio Exalge e live da Exalge. Questo è Battito Madre, il sesto episodio di questa prima stagione. E appunto siamo tornati, siamo andati sulla disco music statunitense, in realtà, però per dimenticarcene subito. Allora, beh, siamo partiti da questo pezzo intanto perché, come dicevamo prima, dicevamo che questa puntata la volevamo un po' costruire sui luoghi e sulle cose, quindi dobbiamo dire e per forza passare per dei luoghi che hanno dato vita e nascita a questo genere, che sono i club e le discoteche. Perfettamente. club discoteche in cui negli Stati Uniti a fine degli anni durante tutti gli anni 70 è stata suonata questo tipo di cosa. Assolutamente. Le innovazioni tecniche, ovvero il come si mixavano i dischi, eccetera, avevamo già anticipato un po' per quanto riguardava l'hip hop. Come venivano prolungati i beat, come veniva presa in esame una sezione più ritmica, più coinvolgente delle tracce. A volte si iniziava proprio a eliminare la parte vocale, eccetera. Quindi c'era tutto questo genere di innovazioni tecniche, tecnologiche, eccetera, che ha portato poi la gente a frequentare assiduamente questi locali. Ma perché? Perché c'era questa musica che non dava freni Esatto, e come queste innovazioni tecnologiche hanno dato una mano, hanno concausato la nascita dell'hip hop, dall'altro lato alla disco hanno fatto un'altra cosa, ma sì, anche, sì, per queste questioni che abbiamo appena detto, ma anche perché forse la disco a fine degli anni 70 aveva cominciato ad annoiare un po'. Quindi, tornando a parlare di luoghi, ma invece di club, di città, diciamo che ne toccheremo tre diverse, che sono tre città fondamentali negli Stati Uniti per questo tipo di cultura, che è la cultura del ballo, della musica elettronica. E la prima città è Chicago, in cui appunto stava succedendo questo. La disco music da un lato aveva annoiato, aveva un po' finito la sua vita commerciale, ecco, perché venivano prodotti sempre meno dischi e la musica, sì, nuova, accattivante da ballare, era sempre meno. Ma c'era quasi una guerra un po' sociale, politica, per quanto riguardava la disco music. Soprattutto in America, il rock, e chi ascoltava rock era... E sappiamo che in effetti in America i bianchi ascoltavano molto rock. La musica disco veniva percepita quasi come una sorta di affronto riguardo a quelle che erano le loro culture, le loro cose, vabbè, classiche stronzate, e che però ha dato effettivamente sfocio a una scarsa produzione di musica disco, e come dicevi tu prima, a un certo punto è iniziato a scarseggiare, ma e nonostante la richiesta fosse molta, perché come dicevamo prima le discoteche stavano iniziando ad avere successo, c'erano ed erano soprattutto due le categorie, ma è brutto chiamarle categorie, ceti sociali, culture, sì, diciamolo per forza, culture che erano quella gay ed erano quella nera. Sì, sì, esatto, ci stavamo proprio arrivando lì. Questa usanza del ballo, di questo tipo di aggregazione del ballo in anni in cui, appunto, come ha detto Coli, sul finire della disco era davvero boicottato e oppresso, è una cultura che è rimasta viva grazie alle comunità nere e alle comunità gay degli anni di fine anni 70 e inizio anni 80. Esattamente. Dunque, anche le radio ovviamente reprimevano questa cosa, quindi effettivamente l'unico posto dove potevi fruire quella musica lì erano i club. Era il club, che in quel momento era underground, spesso illegale, ed è per quello che ho fatto anche quel disclaimer all'inizio, perché non stiamo parlando di licenze, ma stiamo parlando proprio di luoghi quasi più spirituali che fisici. E tra l'altro ho visto anche un post di Mixmag su Instagram che ieri ricordava esattamente questo, che i pionieri della cultura della dance music sono stati erano marginalizzati, soprattutto neri e gay. Dunque, perché siamo andati a Chicago? Perché questa musica, che adesso abbiamo appena finito di chiamare dance, ma che in realtà poi molto presto comincerà a chiamarsi come? House music. E questa è una cosa che io, nonostante appunto l'abbiamo incrociata tutti tantissimo, non mi ero mai domandato perché. Ma com'è che si chiama così? E dunque a Chicago c'era questo locale, il locale più famoso non solo di Chicago, uno dei più famosi degli Stati Uniti, uno di quelli storici proprio di questa cultura. Si chiamava The Warehouse, che si diceva proprio appunto che tipo di luoghi erano questi. Una fabbrica abbandonata che nello slang, diciamo, tra di loro chiamavano The House, ed è diventato talmente influente nella cultura della città che tutti i negozi di dischi pian piano hanno cominciato nei loro scaffali a catalogare certi dischi sotto House Music, cioè musica che viene suonata alla warehouse, e da lì in poi, insomma, è stato fatto il giochetto. perché sì, questa musica è diventata house music. Ok, abbiamo avuto un leggero problema tecnico qui a Exalted, adesso che è saltata la corrente, per cui sono saltate anche tutte le dirette, ma in teoria siamo tornati, aspettiamo solo che ci sia l'ok, è arrivato l'ok, bentornato Coli. Bentornato in diretta, Piero. Non avevo avuto cose, blackout Exalted, proprio. Quest'ultima puntata sta essendo un po' vittima di sabotaggi da parte del meteo, ma noi dritto per dritto, come direbbe quello là, andiamo avanti. Dove eravamo arrivati? Eravamo rimasti al warehouse. Ah, bravo, esatto, sì, io stavo andando un po' troppo prima. Warehouse, niente, volevo chiudere dicendo che, giusto perché l'abbiamo citato, è diventato poi, ha chiuso dopo pochi anni, se non sbaglio. Vabbè, adesso non c'ho quella data. Comunque è diventato il Power Plant e poi il Music Box. Music Box, che è stato altro locale fondamentale per la diffusione. 83, e... eccolo qua, trovato. L'83, sì, sì, 83, fantastico. E quindi, esatto, cioè, dicevo relativamente presto, no? Cioè, nel senso, io poi quando ho letto 83, ho detto... Sì, questione di 5 anni. Ma sì, forse, esatto, 3 anni, tipo. E... però vabbè, a quel punto ormai l'onda era talmente grande che ci mancava poco per... cioè, nel senso, doveva per forza riaprire un altro posto. Dove finalmente arriva la figura di uno dei DJ. A parte che, vabbè, Warehouse c'era Frankie Knuckles, e giusto per annunciarlo. Però esce poi finalmente la figura di un DJ, Ron Hardy, che è il primo ad essere poi definito come quello che portava la house music, e quindi ritmi a 120 bpm, cassa in 4/4, tanta ritmica, bella hi-hat, bello scandito, quindi gli elementi che effettivamente finalmente riconosciamo come quelli che sono ancora, tra l'altro, ancora oggi quelli della house music. E volendo si possono dire un paio di cose, ad esempio quanto questa musica era partecipata dalle persone, tanto che entrava appunto nello slang, oltre a essere che diventate poi effettivamente un genere musicale etichettato, ma entrava nello slang, come ad esempio il termine jack, divertentissima questa cosa, no? Che era un modo di ballo, era un modo per definire il sesso, era un modo per definire sballiamoci, era un modo per... cioè, era tipo una di quelle parole che abbiamo ancora oggi che vogliono esprimere un concetto, no? Quindi to jack. E il ballo era più o meno, cioè qua ti dicono spostando il bacino avanti e indietro al ritmo della musica, per cui sì, di fatto era simulando sì, l'atto sessuale, era anche perché ti era dicono... quello, ci si strusciava sui culi e facevano quello che volevano, esatto, pista i documentari da ballo che abbiamo visto ti raccontano che proprio questi dance floors erano luoghi di libertà davvero... davvero assoluta. No, veramente. Se veniva voglia di fare una cosa la facevi. Ma molto lontano da quello che è effettivamente oggi poi percepita una pista da ballo. Tra l'altro, diciamo, esatto, per fortuna o per sfortuna, non si sa. Lì però ci davano dentro, ragazzi, veramente tanto. E vabbè, questo lo dicono loro, noi non ci siamo stati, peccatissimo. Però questo per dire scusa, che poi... è una cosa l'altra cosa divertente, dice, era a proposito della warehouse o di quell'altra in Inghilterra, this place is probably responsible for some kids. Era il warehouse. Era il warehouse, cioè, probabilmente questo posto è responsabile per qualche bambino, qualche bambina, da tutte le cose che succedevano lì dentro. E, fantastico, bellissimo. Un'altra volta l'importanza delle radio. Le il radio, primo programma radiofonico, esatto, in cui venivano mandati in onda dei mixati di DJ che suonavano in questi tipo di locali. Si chiamava WBMX Hot Mix 5 ed era proprio di Chicago, se non sbaglio, o forse di Detroit. Sono le due città fondamentali sostanzialmente di questa storia. Tant'è che abbiamo detto, la warehouse, luogo che ha battezzato di fatto questo genere musicale che noi, che allora iniziarono e continuiamo noi oggi a chiamare house music, l'anno successivo a livello discografico viene prodotto il primo pezzo che dice esplicitamente il mio genere è house music. Sì. Direi che anzi, prima magari facciamo quest'ultimo passaggio su un'etichetta fondamentale di questa storia di Chicago, che è Trax Records. Assolutamente. Anche un aneddoto divertente è che i dischi erano di qualità molto bassa, perché non c'era sostanzialmente budget per stampare, e quindi andavano a recuperare gli invenduti delle altre etichette, li scioglievano e li ristampavano, e stampavano i propri dischi su quella plastica lì, su quel vinile lì. Per cui i dischi venivano di qualità molto bassa, ma... ma questo ha permesso una grande diffusione, cioè, perché non costavano nulla. Costavano nulla e la gente li suonava, cioè andavano via veramente come il pane quei dischi lì. I dischi House. E che tra l'altro, dicevamo che delle radio, eccetera, quindi innovazione tecnologica, eccetera. Vabbè. Non mi ricordo dove volevo andare a parare. Trax Record, abbiamo detto tutto. Ah sì, volevi andare a parare forse esatto. sulla musica dei non musicisti. Dicevamo che è stata prodotta finalmente una traccia chiamata, cioè esplicitamente house. E questa traccia qua, adesso dopo la sentiremo perché merita di essere sentita, ma ha dato proprio il là a una serie di persone che più che essere musicisti erano appassionati, ed erano appassionati ovviamente sì, poi anche musicalmente appassionati, ma con una tecnica che non era quella del musicista classico, era una tecnica di sperimentazione. E lo definisce questo come il genere della acid house che è venuto appena dopo, sia venuto fuori, che è stato fatto con macchine che erano progettate per fare o i karaoke o per seguire i chitarristi che non avevano un bassista, quindi macchine, sintetizzatori. E però nel momento in cui sono state prese in mano da persone che non sapevano davvero che cosa fosse o come funzionassero, sono state rivoluzionarie. Quindi sì, l'importanza di questa cosa qua, esatto. Diciamo che il grande vantaggio, la carta vincente di questa musica è stata la sua riproducibilità. Andare a ballare, sentire una cosa che dici forse posso fare anche io, e il giorno dopo o magari la notte stessa quando torni a casa ti metti e provi a farlo, e allora si capisce qual è stato l'impatto di questa non solo musica, sì, ma di questa cultura in generale. Allora, ma poi volevo dire anche un'ultimissima cosa. Era musica che era fatta con uno scopo, cioè con una ragione proprio. Non so se ci sono stati altri generi prima di questo che avessero così tanto un focus nella produzione. Perché gli artisti a questo punto producevano musica per essere riprodotta nelle discoteche, quindi anche proprio una scelta di timbrica diversa da quella che c'era stata fino ad adesso. Sì, si è praticamente creato un mercato discografico parallelo, perché era musica che veniva prodotta solo per quell'occasione là, e spesso non circolava e non veniva neanche conosciuta nei circoli di quell'altro tipo di mercato, che era quello puramente discografico, diciamo radiofonico, diciamo non underground, diciamo mainstream. Allora, bando alle ciance, visto che sono quasi le 10 meno un quarto e noi saremo in teoria a metà di questa nostra ultima puntata stagionale di Battito Madre, abbiamo nominato On and On di Jesse Saunders del 1984, il primo pezzo che nel momento in cui è uscito ha detto io sono house, e lo ascoltiamo con grande entusiasmo e grande trasporto, e lo balleremo qui, Exalge, in diretta su astralbene.com e su Radio Exalge. Questo è Battito Madre. Thank you. inside my soul. They make me lose control. It goes on and on. Just clap it to the beat, 'cause Jesse thinks it's neat. It goes on and on. Just say that it's the crew. Just say he makes you move. Must go on and on, goes on and on. On and on, Jesse Saunders è quello che possiamo dire il primo pezzo house, che magari non lo è davvero, ma è il primo pezzo che nel momento in cui è uscito ha detto il mio genere è la house music, cioè sostanzialmente la musica che veniva suonata già a quegli anni, era già passato perché la warehouse aveva chiuso un anno prima nella warehouse di Chicago, mentre noi siamo un programma che si chiama Battito Madre e siamo in diretta su starbene.com e su Radio Ex Alge e parliamo di black music e siamo arrivati all'ultima puntata. Parliamo di black music, perché è interessante questa cosa, come diciamo la house music, diciamo nell'immaginario non ci si immagina qualcosa di black, ecco, forse è stato molto whitewashed come storia. Sì, non so se il termine washed gli dà abbastanza rispetto, perché cioè nel senso non è stata fatta, è vero, è stata presa tanta cultura black, però ha sfociato in tante altre cose. Sì, esatto, hai ragione, è diventata universale, punto. Però diciamo che a noi fa piacere ricordare come... Certo, noi la prendiamo in esame perché è effettivamente musica black quella che era nata in questi anni, quindi non potevamo assolutamente, nonostante anche quello che dici tu, quindi l'immaginario generale, magari anche il numero di produzioni fatte, siano più intestate al popolo bianco, ma effettivamente nasce dalla musica black e quello che noi siamo qua ad analizzare è la madre, è il battito madre, è la, sì, l'essenza primaria. Bravo, e a proposito di quello, allora mi dai un gancio per fare un'altra incursione molto rapida su questo fatto della ripetizione. Gli avanzamenti tecnologici sono stati sfruttati esattamente in questo senso qua, per ripetere all'infinito in loop delle parti di canzone, di disco che interessavano di più. E questo, se vuoi, ma anche se non vuoi, possiamo farlo risalire a una di quelle che è proprio l'essenza della musica africana. Assolutamente. Le cose, e della musica popolare in generale, che, perché ce lo insegnava anche Alan Lomax. Sì, e che mi viene da dire anche che era la base. Che era musica celebrativa, anche quella, no? Musica per stare insieme, musica per condividere un momento. Quindi è assolutamente giusto il ragionamento che fai. Per cui torniamo ai luoghi in cui questi momenti potevano essere condivisi, perché abbiamo parlato di Chicago, della Warehouse, e abbiamo già nominato quest'altra città che per la storia non solo economica ma anche della cultura popolare statunitense è stata importantissima, che noi infatti abbiamo già nominato, che è Detroit. E abbiamo nominato ovviamente nella puntata sul soul per Motown Records. Anche in questa storia la città di Detroit ha un ruolo fondamentale. Il club principale si chiamava, ed era un nome già abbastanza importante, cioè Music Institute, l'istituto della musica, era un'istituzione evidentemente. E questa cosa magari ci piace raccontare sulla scena house, sulla scena dance di Detroit. A proposito di istituzioni, c'è stato un sindaco che è stato in carica davvero per tanti anni, vado a memoria, adesso la ritroviamo. 20 anni. Sì, 20 anni, mi sembra dal 74 al 94. Sì, sì, sì. E si chiamava Young, e adesso ti trovo anche il nome intero, ma insomma questo sindaco era talmente appassionato, lui stesso, Coleman Young, dal 74 al 94 esattamente, era talmente appassionato della vita notturna e dei club e della dance music, che è stato super super liberale con questi tipi con questo tipo di situazioni. E anzi lui stesso partecipava appunto molto attivamente, che c'è stata una quantità di party illegali nella città di Detroit in quei vent'anni lì, che è stato proprio anche lì rivoluzionario. Esatto. E fondamentale. Esatto. Leggiamo di feste illegali con 4.000 persone. Sì, e lui, cioè nel senso, lui stesso celebrava questa cosa qua proprio perché la cultura in quegli anni lì era davvero di inclusione e celebrazione. Cioè, parole sue, adesso non mi ricordo esattamente, ma veniva celebrato l'amore, c'era pace e amore all'interno di questi party, che tra l'altro contestualizziamo, erano party, cioè la scena di Detroit, quella più calcata da questo genere musicale, nasceva addirittura dai party dei licei. E quindi erano studenti, erano ragazzi, erano... Sì, è vero, poi quando sono nati anche i club, la cosa si è spostata anche a un pubblico più adulto. Però il primo vero luogo erano ballroom, erano... Cioè si facevano tre cose, adesso mi viene in mente. Andare sui pattini, a rotelle, ballare... E la terza adesso non me la ricordo. Forse lo skateboard, se non vogliamo includere sui pattini a rotelle. Erano quelle che si lavorava, ecco, a Detroit. Sì, o esatto, si andava in fabbrica, si lavorava. Dalla Ford, dalla General Motors. Esatto, e poi hai detto una cosa molto giusta. Si lavorava, nel senso che Detroit era una città industriale, ma la più industriale d'America. C'erano le fabbriche dell'automotive, quindi davvero il lavoro principale era la produzione in serie, la fabbrica e la catena di montaggio proprio. E diciamo che questa cosa qua un po'... Se non magari per vie traverse a... Diciamo che questo è lo spirito della città, per cui le cose, sì, che vengono prodotte in quella città, se non ha... cioè, andando poi a vedere con il tempo cosa ha prodotto la musica elettronica di Detroit, si ritrova molto questo ambiente industriale di ripetitività, di macchinari, ed è bello, cioè nel senso è bello quando effettivamente un genere musicale riesce a trasmettere così tanto dalla musica. Ma lì, nel senso, quando questa cosa è nata, sì, magari si pensava che ci potessero essere i suoni della fabbrica o della ripetitività o eccetera, però lì, e soprattutto quando poi veniva importata, la cosa bella è che tutte queste persone non avevano nessuna idea di quello che stavano andando a sentire. Quindi più i suoni erano potenti, incalzanti e lontani da quello che era il loro immaginario, più la gente continuava a ballare e si divertiva. Sì, perché poi erano anche luoghi di evasione, insomma, cioè, è tutto, se si parla di safe space è perché c'è qualche cosa da cui, contro cui creare quel safe space lì. In Inghilterra negli anni 50-60 era la razzializzazione tremenda nei confronti dei caraibici, in questi anni magari era più l'alienazione del lavoro, ma anche in realtà la tensione razziale che pure c'era negli anni 80, immaginiamo, in una delle città più popolari d'America. Dunque, a proposito di suoni un po' più oscuri, suoni un po' più che tendono su Detroit, abbiamo questo prossimo pezzo, Corey. Abbiamo, sì, intanto vabbè, è giusto citare l'etichetta, che è Metroplex, che è stata l'etichetta più importante per quanto riguarda la musica di Detroit techno. E questo qua è un pezzo del 1986, si chiama Goodbye Kiss ed è fatto da un grande Eddie Flash, Folkes. Senti come suona su Battito Male in diretta da starbene.com e su Radio Exalge. Scatenarsi. by Kiss, questo pezzo che è del 1986 ed è un suono bello, bello industriale. Beh, sì, che cosa si sente? Cioè, Drum Machine. Esatto, bravo, volevo dirlo anche io. Drum Machine, drittissima. Drum Machine, un Drum Machine, lead, Drum Machine. Che, esatto. Cioè, no, delle, non lo so. Direi prevalentemente, esatto, proprio il, la cassa dritta, i vocal campionati e messi a ripetizione, e veramente sì, i vocal che vengono appunto a dischi, tre note, pip, pip. E hai fatto il disco e hai fatto però ballare migliaia di persone e, con una cultura, in un modo, in un, con uno spirito che poi appunto io non aveva sappiamo. Precedenti, esatto. Ha cambiato abbastanza, ha istituito, ha identificato, ha portato nel mainstream un modo diverso, più profondo di stare insieme ascoltando musica. E questo appunto era Edwin Fawkes, credo di averlo pronunciato bene. Ma insomma, vabbè, siamo tornati in diretta a starbene.com, Radio Exalgin. Questo è l'ultimo episodio di Battito Madre, il numero 6 per questa stagione, che si chiama Club Party. Abbiamo avuto, c'è stata tempesta, abbiamo avuto problemi tecnici, è saltata la corrente, è partita la macchina del ghiaccio, sta partendo la macchina del ghiaccio da mezz'ora. Insomma, non vogliamo proprio finirla questa stagione, eppure stiamo andando avanti e la finiremo. Detto questo, cambiamo città un'altra volta, traslochiamo Cori da, sì, Detroit. È giusto passare secondo me da una parte all'altra, perché essendo tutto concentrato davvero in quella che è una decina di anni, e soprattutto a livello esteso sul territorio americano, vabbè, ovviamente nella parte nord, è normale che ogni città giustamente apporti la sua identità, no? E come dicevamo prima, anche i locali fondamentali. Però di fatto cos'è che per cosa New York era famosa in quegli anni? Per questo club che si chiamava il Garage, o per esteso il Paradise. Beh, aspetta, Garage. Scusa, io volevo farti un passaggino. Prima avevamo la Disco Music e lo Studio 54, certo, studio, cioè, quindi 54. Proprio l'emblema e la mecca per quanto riguarda la Disco Music. Sì, frequentato da tutto il jet set degli Stati Uniti. Ci sono foto, a parte di Andy Warhol, Marilyn Monroe, chiunque è passato dallo Studio 54. Hanno fatto forse le feste più iconiche sono state quelle di Capodanno. Hanno fatto una festa, ho letto, per l'ex moglie di Mick Jagger, in cui sostanzialmente hanno trasformato, scusa, lei è entrata allo Studio 54 a cavallo. E c'è stata un'altra occasione in cui lo Studio 54 è diventato una fattoria per una cantante che doveva performare lì, insomma, un luogo iconico. Che però appunto, se prima parlavamo di ceti sociali, parlava solo allo 0,1%. Sì. E quindi che era stato grande negli anni 70 con la, sì, Disco Music. Quindi inaugurato nel 77, per cui fine anni 70. E chiuso anche dopo poco. Anche lui, è durato 80, 3 anni. Nell'80 è stato chiuso perché il proprietario, Rubel, fu arrestato per possesso di droga e frode al fisco. Perfetto. Anzi, mi viene in mente questa sua dichiarazione che ho letto. E qui dice, una certa, dice: quest'anno a New York più soldi di me li ha fatti solo la mafia. Va bene, aveva della personalità il ragazzo. Ma insomma, grazie Cori che mi hai portato più di qua, perché adesso ci fa ancora più piacere parlare di quest'altro luogo, che è il Paradise Garage, che era l'opposto dello Studio 54, esatto, cioè quello di cui abbiamo appena parlato. I marginalizzati, gli oppressi, soprattutto neri e gay, le culture underground che hanno tenuto viva questa cosa nel momento in cui veniva oppressa dalle leggi, dalle autorità, perché faceva rumore e dava un po', era poco decorosa, ecco. Esatto. E come la house music ha il suo tempio di nascita, che era il warehouse, anche poi quello che è nato, quello che è diventato un sottogenere della house music, ha il suo ha la sua terra natale, che è effettivamente il Paradise Garage. Cioè, che non è, effettivamente poi si tende a confondere garage rock. Questo no, si chiama Garage House perché deriva, come prima, dal warehouse, la musica che veniva fatta nel warehouse, anche c'è questa volta dal Paradise Garage. E ovviamente, visto che non siamo più a Chicago, non siamo più a Detroit, qual era la cosa, il genere, l'influenza predominante per quella che, per quello che riguardava New York? La disco music. E quindi rispetto agli altri, alle altre due città, era comunque un, è diventato quello che è un genere più luccicante, più coi fronzoli e le altre cose. Però che comunque c'è, cioè, dobbiamo dire di tutto rispetto, dobbiamo citare il DJ resident del Paradise Garage, che era Larry Levan, e abbiamo sentito solo cose belle per quanto riguardava quello che succedeva al Paradise. Direi di a sto punto di lanciare il pezzo numero 6. A proposito di Larry Levan, tra l'altro, fatto dai Beach Boys, che era un gruppo in cui Larry Levan era membro e fondatore. Il pezzo si chiama Something Special ed è del 1983. Sì, è del 1983 l'originale. In realtà adesso andiamo a sentirci il remix dello stesso Larry Levan, che è inserito in un disco che è uscito nel 2015. Ma insomma, forse è tanto meglio. Life is Something Special, a proposito di liriche soulful e di musica dance sotto. Senti qui i Beach Boys. Special for you. Special. Life is something special, te lo dicono i Peach Boys, te lo dice Larry Levan in questa puntata che è l'ultima, Live and Direct, dibattito madre, la numero 6, Club Party, su astralweb.com, su Radio Exalge e Live da Exalge, Milano. Dunque, quanta disco in questo pezzo? Cioè, si sente però, no? Proprio. E però devo dire, cioè, brilla. E oltre alla disco, a quella, a quel basso e quella cassa dritta, che, cioè, non fanno altro che farti muovere. E quindi dici, bel risultato, complimenti. Ebbene, a New York e negli Stati Uniti in generale succedeva questo, ed erano, di nuovo, lo ripetiamo, a costo di essere ridondanti, erano posti in cui ci si ritrovava per stare insieme e per condividere un momento che era molto più significativo dell'ascolto e del ballo. Però, mentre negli Stati Uniti succedeva questo, torniamo in Inghilterra, dove stava per succedere la stessa cosa, ma dell'altro. C'erano, ad esempio, i Joy Division, che stavano affascinando la nazione e il mondo con questo loro fascino un po' sfigato e con queste loro basi elettroniche e molto dirette. Certo, diciamo. La musica elettronica, esatto, era andata comunque, anzi, forse i primi veri e propri utilizzi di strumenti elettronici, campionatori, sintetizzatori, venivano fatti in Europa. In Germania, forse, ad esempio, per citarne uno, basta dire Kraftwerk. Però ovviamente questa cosa qua è andata Kraftwerk poi 77, tra l'altro, quegli anni là, We Are The Robots, quell'anno là. E questa cosa però non poteva che non influenzare tutto il resto di che veniva prodotto in quegli anni, perché aveva successo, cioè ha avuto immediatamente successo. E appunto gruppi come i Joy Division facevano largo uso di questi suoni che fino a poco anni prima non esistevano. Esatto, però l'influenza si poteva limitare alle cose che di cui si poteva fare first hand experience, esperienza di prima mano. Per cui fino a quel momento lì si era limitato semplicemente alla scrittura della musica e alla lavorazione del suono, perché i dischi arrivavano, perché le radio ormai arrivavano. Però lo spirito era ancora molto quello locale, autoctono, appunto, ho detto fascino sfigato, molto inglese, che non me ne vogliono gli amici e le amiche inglesi se ci stanno ascoltando. E la storia è brevemente questa. I Joy Division, che erano firmati con la Factory Records di Manchester, questa è una storia mancusa, una storia di Manchester, all'apice praticamente della loro fama, che anche lì è durata molto poco perché lo diremo ora, vanno a fare un tour negli Stati Uniti, ed è un tour dei club sostanzialmente, perché ovviamente palazzetti e stadi non ne riempivano, ed è un tour dei club, e loro e nelle loro serate e nelle serate che si concedevano di divertimento nei propri giorni liberi senza show, hanno conosciuto la club culture, ormai la dance culture statunitense, questi luoghi in cui la libertà si praticava veramente senza predicarla e basta, luoghi di accoglienza estrema che in Inghilterra evidentemente non c'erano, a Manchester non c'erano, e il primo pensiero di Factory Records e di Joy Division al ritorno da questo tour negli Stati Uniti è stato: dobbiamo costruire un posto così anche a Manchester. Deve esserci un posto così, esattamente. Ed è così che nasce quest'altro luogo di culto di cui parliamo questa sera, della dance culture, che non lo è stato dall'inizio, ma lo è diventato. Si chiama La Hacienda. C'è un documentario della BBC su questo luogo che noi vi consigliamo caldissimamente, che ci confessa che il nome è preso da, adesso non mi ricordo esattamente autore o libro, ma sostanzialmente da un libro di un'utopia anarchica, di La Hacienda, sì, deve essere costruita, perché La Hacienda intende proprio un luogo di condivisione, di vita vissuta insieme fuori dagli sbatti, diciamo, nella realtà brutta quale si poteva presentare a Manchester a inizio anni 80. Certo, mi ricordo anche un'altra cosa divertente. c'era stato un altro artista che aveva messo insieme un gruppo di cui non mi ricordo il nome, scusatemi, grazie a un forte successo che ebbe un loro singolo, avevano fatto un tour in Europa e aveva visto quello che era effettivamente in quel momento Marshall Jefferson, è vero, forse era proprio lui, e dice che quindi c'è stato un anno, ha visto quello che erano i club, quello che erano le cose lì a Londra, atte a promuovere questo genere di eventi. Ci è tornato l'anno dopo, dopo che probabilmente era nata l'azienda, eccetera, e ha visto come cambiare le cose. Tutto. Proprio, cioè, completamente, stravolgersi. Sì, adesso anche i flash, le magliette con lo smiley della faccia sorridente. Perché nasce, effettivamente, nasce un movimento molto grande che sarà... Insomma, queste informazioni che noi adesso non ricordiamo le trovate in un documentario che si trova su YouTube, si chiama Pump Up the Volume, che dura 2 ore e mezza abbondanti, ma sì, è davvero una bibbia della BBC, credo sia del fine anni 90. 2 ore e mezza di, sì, assolutamente, per cose. Cui nasce la Hacienda, che all'inizio in realtà però è solo un club per concerti, solo tra virgolette, però è un club per concerti molto frequentato, ma fa quello. Nel momento in cui appunto ci sono i DJ statunitensi che vengono a fare i propri tour in Europa e nel Regno Unito, l'azienda, diciamo, cambia un po' direzione, complice anche la morte del povero, il suicidio del povero Ian Curtis dei Joy Division, che fa sì che Joy Division diventino New Order. E quindi cambia un po' tutta la direzione dell'azienda, diventa molto più dance, diventa molto più dance floor, molto meno concerto live. Il pubblico cavalca quest'onda in maniera proprio spropositata. Grande avventore è stato Liam Noel, insomma, i fratelli Gallagher, intervistati in questo documentario di un'ora, invece, esatto, quell'altro successivo, come regular l'azienda, sì. Regular, non è altro nella vita. E oltre a questa partecipazione spropositata di persone, c'è un consumo spropositato di quella che diviene poi la droga e il simbolo cardine di quella che era in quegli anni, soprattutto in Europa, la house music, ovvero l'ecstasy, o MDMA, o quella cosa lì. La conoscete. Quella cosa lì, le pasticche, che Cori mi ha raccontato questa cosa, tra l'altro curiosa e divertente, che ci racconta come questa tendenza all'alterazione della coscienza sia in realtà contraria a quelle che sono le origini della house music e della dance music, perché nei primi party negli Stati Uniti mi dici che nemmeno veniva servito alcol, ma si beveva succo di frutta. Ma l'azienda stessa ha avuto un paio di anni di grossa difficoltà economica perché la gente non beveva, semplicemente non riuscivano acqua a vendere alcol nel bar, e quindi la stragrande maggior parte degli incassi che dovrebbe fare un posto del genere era pressoché nulla, e tant'è che poi da lì sono arrivati i problemi veri e propri dell'azienda. All'interno c'erano proprio veri e proprie organizzazioni criminali che spacciavano ecstasy, quindi accordi presi direttamente con i gestori del locale, e questo poi ha portato per la chiusura per diversi anni, e se non a quella totale. Ma quindi, esatto, cioè i due componenti, musica, anzi tre componenti, musica, ballo e ecstasy, erano una cosa sola. Per cui anche la storia dell'azienda, come evidentemente succede spesso a questi luoghi molto importanti, è durata molto poco, ma tanto è bastato per farla diventare fondamentale, per farla diventare un pezzo di cultura popolare dello UK. Però esatto, cioè nel senso, a questo punto cosa succede? Viene esportata dall'America questo nuovo groove, questo nuovo sound, e in un posto come l'Europa, che era pieno e le persone non facevano altro che mangiare musica e pullulava di artisti e di opportunità, probabilmente anche più che in America. Le due cose, la fusione del genere elettronico house music su tutto quello che era il resto, quindi sul rock, sul R&B, sull'hip hop, su qualsiasi altro genere musicale, era dietro l'angolo. E infatti sono usciti quelli che erano i generi che appunto abbracciano queste cose. Poi citeremo anche l'Italo Disco, eccetera. Però con calma. A proposito di ibridazione, direi torniamo a sentire della musica che ci piace suonare questo pezzo, perché si sente proprio che ci sono tanti elementi. C'è molto di black, molto di statunitense, ma c'è anche molto di leggero bianco inglese, se vuoi, no? Beh, sì. In questo pezzo degli Stone Roses. Sì. C'è rock, c'è break, c'è hip hop, c'è un bel miscuglio di cose. C'è questa roba qua, il pezzo numero 7 di questa ultima serata di stagionale di Battito Madre, si chiama Fool's Gold e fa così, senti qua Cori. Gold della band che si chiama The Stone Roses in questa puntata mattissima di Battito Madre, l'ultima in diretta su astrabene.com e su Radio Exalge, in cui parliamo di club, cioè dei luoghi della musica. Bello, divertentissimo questo pezzo, in cui c'è davvero di tutto. Di cioè... tutto, sì. Infatti tra l'altro, se non ricordo male, il genere è proprio left field. Inizia ad esserci anche questa cosa qua del dell'inesplorato, no? Quindi proprio, cioè, che celebra la fusione di più cose. E si sente di tutto. Che questo è un pezzo bello, ovviamente non lo diciamo noi, ma lo dice la rivista NME, che è una rivista britannica, che nel 1989 ha deciso che questo era il singolo dell'anno e che è un motivo in più per suonarselo. E dunque, però, visto che in questa puntata mattissima sforeremo di sicuro, perché noi dovevamo staccare alle 10 e mezza mancano 2 minuti, ma tanto noi andiamo avanti perché possiamo. In questi anni, cioè sostanzialmente negli anni 80, negli Stati Uniti succedeva quello che abbiamo sentito, in Inghilterra succedeva quello che abbiamo sentito, in Italia che minchia succedeva? Perché è giusto dirlo, siamo in Italia. Italia, poi le bandiere per noi non contano nulla, però è il luogo in cui viviamo, in cui facciamo la nostra esperienza della vita. E tra i tanti lasciti che ha lasciato quello che chiamano genere, macro genere post disco, c'è anche la Italo Disco. La Italo Disco, che è inizialmente, diciamo subito, è un termine inventato dal discografico tedesco Bernard Mikulski, che usava per, appunto, diceva Italo per definire le produzioni della disco music che venivano dall'Italia. Ed è un fenomeno nato dalla fine degli anni 70 fino a tutti gli anni 80. Oltretutto, cioè nel senso, è bello che finalmente ci sia un genere che sfocia in tantissime altre cose. Cioè, finalmente abbiamo un questo genere musicale viene preso e fatto proprio da tantissime culture. Perché forse più che di genere si parla proprio di approccio e alla produzione e all'ascolto, che sono davvero profondamente diversi alle cose che erano successe fino a quel momento lì. Le balere non erano quello che poi sono stati i club, nonostante poi i luoghi spesso sono stati gli stessi, soprattutto nell'Italo Disco. I club, le discoteche più importanti sono state molto spesso delle vecchie balere riqualificate, ma il modo di stare insieme lì, di ascoltare, di ballare insieme era profondamente diverso, se vogliamo già importato. E non poteva non trasparire questa mediterraneità e italianità anche all'interno di produzioni che arrivavano dal bel paese. Esatto. si sente, dai, non è a caso. Fatto che poi abbia avuto effettivamente, cioè, un discreto successo, è un genere che ancora oggi funziona molto e viene ancora molto suonato. Scusa, Italo Disco è il titolo dell'ultimo singolo del gruppo napoletano che si chiamano i The Colors, con la K, hai presente? Certo. Loro due settimane fa, hanno uscito un singolo che si chiama Italo Disco, per cui, anzi, dagli anni 2000 in poi, soprattutto ultimamente, è stata super ripresa questo tipo di sonorità, che soprattutto non a caso riguarda basso e batteria. Sì. E devo dire che secondo me è un'altra complice di questo successo. C'è ancora una volta la partecipazione che c'era da parte della gente, degli ascoltatori, del popolo, perché non ci sarebbe Italo Disco se non ci fossero state le discoteche più importanti d'Italia e che vengono riconosciute in tutta Europa. Partendo da qualsiasi nome della Riviera Romagnola, ma penso toccando davvero da nord a sud. Sì, si leggono un po' di nomi, diciamo che forse soprattutto concentrate al nord. Ho letto di Mantova, ho letto sì, soprattutto comunque anche della Riviera Romagnola. Insomma, l'Italo Disco, la Disco è stata lanciata in Italia nel 74, diciamo, con la mitica Marcella Bella, con questo pezzo che si intitola Nessuno Mai, che è diventato famosissimo anche grazie alla cover dei Boney M, che si chiamava Take the Heat Off Me, Ma vabbè, al di là possiamo nominare tanti, anche i Pooh hanno fatto Italo Disco, i Righeira è presente, l'estate sta finendo, certo. L'epoca è quella, è stato il periodo storico in cui l'Italia ha esportato più, il maggior numero di dischi, mai più siamo tornati a vendere la quantità di dischi all'estero quanto tra anni 70 e anni 80. E due artefici di questa grande cosa che si è chiamata Italo Disco, appunto, sono stati i fratelli La Bionda, Carmelo e Michelangelo. Hanno fatto hanno messo lo zampino sui Righeira, ma soprattutto avevano il proprio progetto che si chiamavano i La Bionda, di cui poi andremo a sentire qualcosa, ma insomma vengono proprio considerati tra i fondatori della Italo Disco. Un altro pezzo importante e che è diventato famoso è stato un pezzo di Raff, pensa te. Si chiamava Self Control, che grazie proprio quello, una versione di Laura Branigan l'ha portato addirittura nella US Billboard Hot 100, cioè nei 100 pezzi più ascoltati negli Stati Uniti, e anzi in Svizzera, vabbè, però comunque è stato il singolo più venduto del 1984, ma soprattutto il quinto più venduto in Inghilterra. Cioè sono numeri assurdi, che sono numeri assurdi, appunto, cose che non succederanno, credo. Non è mai più successo, mai forse, più, non è più, forse non è mai più successo. E quindi dai, un po' di autocelebrazione. Un po' di autocelebrazione, per cui un po' di La Bionda, questo pezzo tutto in inglese, divertentissimo, che io adesso mi alzo e mi ballerò dall'inizio alla fine. Il pezzo si chiama I Wanna Be Your Lover, e guarda caso è del 1984. Torniamo sempre lì, e pare di essere al Cocorico o comunque nel Riviera Romagnola. I fratelli La Bionda, I Wanna Be Your Lover, in diretta su astralbene.com e su Radio Exalge. Make contact. Riding in a spaceship, 1984. Picking up a signal never heard before. Wanna be your lover. Wanna be your lover. Wanna be your lover. Don't just be your friend. Wanna be your lover. Wanna be your lover. Wanna be your lover. Ground control's excited, I'm here all alone. Alien transmission chills me to the bone. Outside in the darkness, something waits for me. Now I see its picture forming on TV. Wanna be your lover. We'll be right back. I Wanna Be Your Lover, dicevano i carissimi fratelli La Bionda, che mi dice il mio carissimo amico Giovanni, che ci sta ascoltando in diretta su astralbrain.com e su Radio Exager. Quante ne sapevano tante. Giova, io ti mando un grande abbraccio e lo mando anche a mamma, posso, Coli, che mi ha scritto su WhatsApp, per cui ciao mamma, un abbraccio anche a te. Un Ma saluto quindi, generale anche a tutte le mamme. A tutte le mamme. Se la mia, se la mia è lì che mi ascolta. Ciao mamma. Allora un saluto a tutte le mamme di chi è qui a Exalge, anche a quelle di chi non c'è. Possiamo Ma con questa rapidissima incursione, con questo momento altissimo di radiofonia, abbiamo sostanzialmente finito questo nostro ultimo viaggio stagionale nei generi di black music. Ne abbiamo toccati, già abbiamo fatto 6 episodi, abbiamo toccato più di 6 generi, diciamo una decina, forse un po' di più. È stato molto bello. Beh, Piero, esatto. È stato molto bello. Mi soffermerei sulla bellezza. Ogni volta che ci vediamo ci diciamo: ma quanto è bella la playlist, quanto è bella, ma quanto la, è bella musica. La puntata, ma quanto è bella la musica. Sì, sì, è bello fare delle cose che poi noi riconosciamo come, almeno che soddisfano noi stessi. Sì. Poi belle o non belle, sì, ce lo direte voi, non lo sappiamo, ma noi sicuramente. No, per noi la nostra missione, devo dire che è stata assolutamente completata. E allora abbiamo finito questa puntata in cui abbiamo parlato di luoghi in cui ci si ritrova per condividere musica a un livello profondo. Noi vi dobbiamo ricordare che Exalge diventerà un luogo del genere esattamente tra un mese, giusto? Cioè sabato 24 giugno alla festa di fine stagione di Battito Madre, che adesso capiremo come chiamare, ma seguiranno prestissimo comunicazioni. Quest'estate sarà un'estate di festival, ne faremo, magari ci vedremo in giro come Coli, come Piero, come A Star Bene, come Avant Radio, come un po' quello che siamo e quello che rappresentiamo. E insomma, Coli, grazie di aver viaggiato insieme, grazie ad Exalge perché ci ha accolto durante tutto quest'anno, e noi vi promettiamo che ci accoglierà anche l'anno prossimo. Diciamo. Facciamo gli auguri al presidente di Exalge, che li ha fatti in settimana. Verissimo. E non li abbiamo ancora fatti. Auguri presidente, ha fatto i suoi primi 30 Verissimo. anni, e noi gli auguriamo altri 3 di 30 anni. E tra l'altro c'è stato anche poco tempo fa il compleanno di Exalge, quindi diciamo, se vogliamo metterli tutti tanti, dentro tanti è un momento per celebrare, è un momento per fare festa, lo sarà anche tra un mese, venite che e vi aspettiamo, ci sarà bella, su quello lo garantiamo, musica noi, bella. Noi alla maniera di Battito Madre, a proposito di musica bella, vogliamo chiudere in non in bellezza ma in follia, e allora ti lascio volentieri la parola, Cori, non perché tu sia più matto di me, se credo che siamo matti esatto. entrambi, però questo ti stavo per correggere tua. E beh, niente ragazzi, allora come genere, come celebrazione di questo genere, ho pensato a una cosa. Che cosa è in grado di fare la musica elettronica? Di fondere generi e musica. E quindi ho pensato a uno barra due artisti che potessero farlo e rappresentarlo abbastanza bene. E si chiamano, e questi due artisti sono i Mouse on Mars e Errorsmith. Sono due artisti entrambi europei di Berlino. Uno, Mouse on Mars, è un duo e però europei di Berlino, cioè proprio parliamo di elettronica, non è che puoi andare che poi esatto, dicevamo prima è stata washata, no, di brutto dai tedeschi In ogni caso, sono state fatte tante cose molto belle e uno tra queste è questo disco composto da featuring dei Mouse on Mars e con tanti altri artisti, quindi un altro esempio di come poi la musica elettronica sia anche un senso di comunione, di condivisione e di questi bei valori di cui giustamente si millanta. E il disco si chiama 21 Again. Il pezzo che vi ho portato si chiama Error Mom, che è semplicemente, anzi, ha ancora più a significare quello che vi stavo dicendo, una fusione tra Aerosmith e Mouse on Mars. Godetevelo, del 2014. Vi salutiamo ragazzi. Eh sì, e poi andremo direttamente in sigla. Grazie di essere stati con noi e state con noi questa sera durante tutta la stagione. Noi ci sentiremo presto, ma soprattutto ci vedremo sabato 24 giugno. Exalge, save the date. C'è un modo per dire fateci sapere cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto? Sì, c'è un modo, canale Telegram, ma in realtà ci trovate su Instagram, potete scrivere da Star Bene, potete scrivere ad Exaglio, potete scrivere a noi due stronzi, anzi, che tanto comunque vi leggiamo. Possiamo anche salutare la nostra fan numero uno dalla Spagna. Giulia, se ci stai ascoltando da Barcellona, ti vogliamo se ti bene. Recupererai il podcast, noi ti vogliamo tantissimo bene, ti arriveranno dei fiori. Sì. In quest'estate sei stata la nostra fan numero uno. E ciao a tutti. Se tutte volete vincere dei fiori anche voi, scriveteci. E diteci che siamo bravi e riceverete fiori. Detto questo, chiudiamo e poi andiamo in sigla. Sentiamo questo pezzo, si chiama Error Mom. Ciao ragazzi. Ciao, grazie. What we have come into the room to do. Please cut the fuck. To do. www.askthebenny.com.